and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Ciao Drago, ciao ciao. Ciao ciao K, oggi si comincia subito con un bell'argomento di quelli che ti piacciono. Mi piace, sì. L'obesità infantile. Ma è un'ossessione, Drago, ma io non so che problemi hai. Lo sta diventando. Ma tu eri un ex grasso? No, no, anzi, un ex magrissimo. Non capisco. Ma no, ma sono tutti ossessionati dall'obesità ormai, anche sì. La UE. Evidentemente la UE, l'Unione Europea, sì, ascolta Chiedo Asilo e in particolare ascolta la rubrica Sei Grassa. Ha un'idea, cambiamo il titolo alla rubrica. Sì. Da Sei Grassa potrebbe essere Fai Schifo, anche perché più perché uno si sente più colpito, forse proprio, sì, fai schifo. Perché sei grassa? Perché poi al femminile, sei grasso anche. Eh no, ma le donne si incazzano di più. È vero. La scorsa settimana l'Unione Europea ha stanziato 18 milioni di euro per fornire di frutta a tutte le mense scolastiche del continente. In effetti una delle cause dell'obesità infantile che avevamo discusso qualche tempo fa qui a Sei Grassa era la carenza di frutta nella dieta dei bambini. Infatti, quindi poca frutta. L'Unione Europea, ma anche, guarda qui, la Romagna, 73.000 bambini avranno la frutta gratis nelle scuole. La notizia è di qualche giorno fa. Beh, e quindi, comunque insomma, di cause ne abbiamo elencate molte, cause che portano all'obesità, compresa l'assenza di tonsille. Se la UE avesse deciso di prevenire l'obesità partendo dalle tonsille, avrebbe speso 18 milioni di euro per reimpiantare le tonsille nelle gole dei bambini cui erano state tolte. Però previo mi ridate il gelato al limone. È certo, quello che è stato consumato abbondantemente. Però quindi meglio la frutta, no? Che non so, dipende. Io sono allergico al kiwi. E alle tonsille? Gildo, Gildo! Gildo, Gildo! Continua, bambino Alberto, la tua canzone. Il mio dentino! Devo metterlo! Ma cosa? Sotto il cuscino! Ah! Perché così poi? Sì. Che poi quando metti il dentino sotto il cuscino, sì, e la mattina dopo trovi un regalino. Oh, ti è passato il mal di denti. Sei stato dal dentista. Non volevi andare dal dentista e adesso sei contento. Finalmente. Oh, adesso devi mettere il dentino sotto il cuscino, poi viene il topolino. Sì, però non è mica stata una roba così facile. Cosa? Vabbè, il dentista è il dentista. No, i miei mi hanno portati da un vecchiaccio di 100 anni. Ma un vecchio dentista che non... Questo qui non operava più da anni. Ma non era un dentista, era un probabilmente un ex studente di. No, avevo un grembiule bianco. No, no, era un grembiule bianco. Era un dentista democratico. Si è lavato le mani con la carta vetrata. Ma come? Senza guanti. Poi ha scaldato le pinzette con l'accendino. Vabbè. Ma quello serve, E poi mi ha cavato il dente, ma senza dirmi niente! Beh, però sei guarito, no? Sì, adesso sì. Dai, tutto bene, quel che finisce bene, dai, su. Ma sei tu che mi dicevi che facevo bene, non andare dal dentista? Sì, però alla fine ci sei andato, quindi dai, sì, olista. Olista. E cos'è? Una marca di caffè? Ma no, niente, dai. Adesso basta, Cosa c'è? Ogni volta che io vi dico che vuol dire, cioè, spiegatemi, voi mi dite niente. E basta. Vabbè, ma cosa c'è da spiegare? Poi bambino Alberico, sai che noia tutte le volte spiegarti ogni parola che non conosci? Praticamente dovremmo fermarci ad ogni parola un po' difficile e farti l'etimologia. Ma niente. Noè, fermi, allora forse non mi sono spiegato bene. Senti, passiamo oltre. Bambino alcolista. Andiamo oltre. No, ma quella è mia madre. Ma no, ma smettila di infangare la tua famiglia. Alcolista. Ma cosa infangare? Cioè voi come la chiamate una che dorme con la bottiglia di porto a portata di mano? Il porto è ovvio che sia a portata di mano, Drago, no? Ma cosa? Si chiama porto. No. Questo è molto divertente. Sapete cosa fa mia mamma? Lei si sdraia sul divano. Lascia la bottiglia sul pavimento, in modo che quando collassa, perché prima o poi collassa, e lei lo sa, il braccio le scivola lungo il fianco e cade verso la bottiglia. Così quando si sveglia, arraffa la bottiglia, quasi è un gesto inconsulto. Ma come inconsulto? Automatico. Come il cane di Pavlov. Vabbè, si sveglia, prende in mano la bottiglia. E giù. E vabbè, Alberto, dai, sono cose che alla radio forse è meglio non dire. Piuttosto, dai, dici com'è stata la tua prima giornata senza mal di denti e senza gesso. È interessante. Ma in pratica, dai, è la sua prima giornata da bambino sano all'asilo, sentiamo com'è andata. A dire la verità non mi ci sono ancora abituato, perché sento tutto un po' strano intorno. È strano, cioè... Allora ne approfitti e corri a giocare e finiamo questa intervista inutile. È bello lì, cosa? Perché mi fa ancora male il piede. Vedi. Ma il metatarso è delicato, bisogna fare la riabilitazione. Sì, come i calciatori, ma sei una carcassa. Questa è solo sfortuna. Vorrei vedere te. Madò, il piede te lo sei rotto per colpa tua, insomma, non è che è stata sfortuna. Ma perché tua... colpa mia? Sono caduto dalla bici? Sì, però la bici te l'hai rifatta truccare da Gino il bidello. Vabbè, io mi sono affidato, no? Male, bambino ambarabacci cicocò. Tre civette sul comò. Appunto. Che poi, voi mi volete spiegare che cos'è sto comò? Ma il comò è il mobile che sta vicino al letto, dal francese commode. No. Qui ti confondi con la sedia da comodo, altrimenti detta la comoda, sì, che è quella, la sedia col buco, no? Che ci fai la cacca da seduto. È come quella che c'ha il mio nonno allo spizio. Ma che tristezza, dai ragazzi, dobbiamo sempre finire a parlare di cose sgradevoli adesso. Sgradevoli! Mio nonno è vecchissimo! Poverino. Quando avrai la sua età? E anche tuo non è la comoda. Vabbè, ma quanti anni ha tuo nonno che è così vecchissimo? Ma non lo so, perché è vecchissimo, è decrepito, è un rottame, avrà 60 anni. 60 anni, a me non è che manca poi molto. Ma tranquillo, poi c'è la comoda, il montascale. Oh, in questi giorni, Drago, si è parlato tantissimo di una via. Come no? Via le BR dalle procure. Ma scusa, dico io, con tutti i problemi del mondo, dalla Libia al Giappone, da Haiti alla Cecenia, noi andiamo a occuparci di una via, di una strada, di una via, che poi non ho capito nemmeno se è una via di Roma, di Milano, di quale altra città è. Questo è molto divertente. Guarda, a sentire certe cose, avrebbe voglia di inaugurare una piazza, altro che una via, una piazza. Che piazza? Piazza l'esplosivo e scappa. Senti cosa ti auguro, che ti cadesse un fulmine da un cielo di tempesta e se oggi il cielo è limpido, almeno qualche rondine te la sganciasse in testa. Stordito dalle tracce organiche di un cane di Fukushima affiutate sul copertone di un'auto parcheggiata a Milano in piazzale Lotto, l'inoffensivo bassottino Tito si è trasformato prodigiosamente in un ferocissimo e indomabile bassotto Geure Geure. Richiamati dal ringhio di Tito, centinaia, ma che dico, migliaia di bassotti Geure Geure stanno per invadere il mondo. Aiuto! Ah, aiuto! Ah, i bassotti Geure Geure, no! Prossimamente su queste frequenze, l'invasione dei bassotti Geure Geure. Sì, Tito, adesso basta però, Ma cos'è, un film? Ma no, è il trailer di una cosa che succederà davvero. Ma in che senso? Che tra poco, Drago, saremo tutti invasi dai bassotti Geure Geure. E sono pericolosi? Volentierissimo. Sì, ma da quando è che si fanno i trailer di quello che succederà nella realtà? Da adesso. Abbiamo già belle che pronto il trailer de La morte di Drago. Ma cosa stai dicendo? Dai, giochiamo d'anticipo. Molto d'anticipo. Moltissimo d'anticipo, spero. Ma moltissimissimo volentierissimo. E poi chi siete voi? Dici abbiamo, giochiamo d'anticipo. Ma chi siete voi? Ma no, ma niente, dai. Geure, Geure. Geure, Geure. Geure, Geure. Niente. Cosa succederà qui all'asilo? L'invasione dei bassotti Geure, Geure. Non succederà niente. Chiedo asilo. Geure, Geure.